Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Nel panorama musicale internazionale sono moltissimi gli artisti che cantano in lingue differenti dalla propria. In particolare l'inglese viene scelto abbastanza di frequente perché è una delle lingue più conosciute e diffuse. E così cantanti provenienti da ogni parte del mondo riescono a conquistare i mercati stranieri realizzando la versione inglese del proprio successo del momento. Un modo abbastanza semplice per farsi comprendere da tutti. Ma c'è qualcuno, un cantante unico, un mito vivente, una personalità grandiosa, che ha invece percorso nella sua carriera oramai lunghissima una strada differente, cantando addirittura scrivendo le sue canzoni in ben 7 lingue diverse. Un record che detiene solo lui. Ascoltiamolo. Estan fuerte y te mira a la vez, que me confunde, yo lo sé, y te confieso que lo es todo. Para mí, toi qui es ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages. È impossibile non riconoscere questa voce tenorile così particolare, che spazia dalle note alte, acute, squillanti, a quelle basse, estremamente calde e profonde. Ma soprattutto è impossibile non riconoscere questa pronuncia così unica, una R che denota la provenienza francese, ma con qualcosa di strano, di quasi esotico. La puntata de I Magnifici Destini di oggi è dedicata a un protagonista della scena musicale mondiale, un interprete e compositore inconfondibile che da oltre 60 anni calca le scene di tutto il mondo, l'incomparabile Charles Aznavour. Lei, così importante, così unica, dopo la lunga solitudine, intransigente, imprevedibile. Saranno le sue origini. Aznavour, infatti, è nato a Parigi da genitori armeni sopravvissuti al genocidio turco e in attesa di un visto per gli Stati Uniti che non arriverà mai. Ma la sua è una internazionalità che prescinde dalla lingua che utilizza, quasi fosse la sua voce e non le parole a esprimere i sentimenti che sta cantando. Eppure lui dà una grandissima importanza alle parole. Nella composizione di una canzone, per me, la melodia viene sempre per seconda. Prima vengono le parole. E l'ispirazione mi viene da quello che c'è intorno, perché le situazioni cambiano. Vedo quello che succede, mi viene un'idea e scrivo le parole. Poi ci metto la musica. I suoi testi in effetti sono sempre molto ispirati e inusuali. Spesso Aznavour parla d'amore nelle sue canzoni, ma lo fa in una maniera tutta particolare e anche molto anticonformista. E tu sei buffa più che mai, con questa tua severità. Vuoi che stia zitto, invece no, e l'alcol che mi fa parlare mi dà il coraggio che non ho di confessare la verità, che sono stufo sia di te che della tua malignità. Indubbiamente un grande attore, uno di quei pochi cantanti che nello spazio di una canzone riescono a raccontarci una storia intera, uno spaccato di vita vissuta nel quale in molti possono riconoscersi. Sarà questa la ricetta del grande successo di Charles Aznavour? Saranno le suggestioni che i suoi racconti in musica riescono a costruire o le vibrazioni della sua timbrica unica? Chi lo sa? Oggi ai Magnifici Destini cercheremo di comprenderlo attraverso gli incontri che si rivelano fondamentali nella vita e nella carriera del nostro chansonnier franco-armeno. Charles, che per l'esattezza si chiama Shanur Vagenag Aznavourian, ha solo 9 anni quando per la prima volta calca le scene, modificando il proprio nome in Aznavour per renderlo più facile. Non può continuare a studiare. I suoi sono poveri, deve lavorare. Mio padre aveva un ristorante armeno, si chiamava Le Caucase. E spesso cantava per i suoi clienti. Mia madre invece era un'attrice comica e mi portava sempre con sé alle prove dei suoi spettacoli. Fu così che senza accorgermene, entrai nel mondo dello spettacolo. Recitavo e cantavo fin da piccolissimo. E poi, naturalmente, aiutavo nel ristorante. Il destino di Charles è segnato. Lo comprende subito non appena si ritrova su un palcoscenico. Capisce che quella sarà la sua vita, che non potrebbe mai fare altro. Nel canto e nella recitazione forse ritrova se stesso. Non deve essere facile per un armeno povero, seppur nato a Parigi, vivere la realtà di un rifugiato, essere comunque uno straniero nel proprio paese. Cantando la sua ansia si placa e poi un giorno sente una canzone. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. È il grandissimo Maurice Chevalier. Dopo averlo ascoltato, Charles decide definitivamente. Sarà anche lui uno chansonnier. Forse non ha il physique du rôle, come si dice, è piccolino, solo 1,60 m, non è bellissimo, ma ha una tale intensità di espressione che conquista tutti, uno spessore difficile da trovare in un giovane come lui. Con l'amico pianista Pierre Rocher crea un duo con il quale si esibisce nei locali della capitale francese. Una mattina sta leggendo il giornale come al solito, quando scopre che si terrà un'audizione pubblica di un impresario musicale che cerca nuovi talenti. Lui non ha dubbi, si presenta senza pensarci troppo su. Non sa ancora che stanno cercando un cantante giovane da inserire nello staff di un artista che partirà in tournée prima in Francia e poi negli Stati Uniti. E l'artista in questione non è una qualunque. No! Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non. La grandissima Edith Piaf. E lei il favoloso, imprevedibile, fortunato incontro che rappresenta il primo magnifico destino nella vita di Charles Aznavour. È lui stesso a raccontare quello che accade. Dans une émission publique. L'ho conosciuta ad un'audizione pubblica. Doveva partire col Charles Trenet per gli Stati Uniti per una lunga tournée. Certo, non avevo idea che quella mattina avrei cantato davanti alla grandissima Edith Piaf, se no sarei morto di paura. Forse non ci sarei nemmeno andato, ma non lo sapevo. E fu questa la mia fortuna. E così il giovane franco-armeno sta cantando davanti al suo mito, la più grande cantante francese di quel momento. Ma come mai Edith Piaf, fra i tanti giovani che si presentano alla sua audizione, è colpita proprio da Charles Aznavour? Scopriamolo insieme. Je me fous du passé. Passerotto, questo significa nell'argot parigino la parola Piaf. E in effetti Edith Giovanna Gassion è così minuta e piccolina che il soprannome le sta benissimo e diventa il suo nome d'arte. Grandissima interprete del filone realista francese, ha una carriera sfolgorante che si dipana fra gli anni 30 e 60, ma una vita sfortunata, costellata di eventi tragici e minata da un uso eccessivo di alcol e sostanze stupefacenti che saranno la causa della sua morte prematura. La vita le riserva parecchie sofferenze. Prima, una travagliata storia d'amore con l'attore Yves Montand, da lei scoperto e portato al successo. Non appena diventa famoso, Yves la abbandona. Edith passa un anno d'inferno, disperata, ma poi decide di dare una svolta alla sua vita ed è proprio con questo spirito che scrive una canzone bellissima. Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rond. È la maniera francese per dire: sto guardando il mondo con degli occhiali colorati di rosa. Così Audrey Hepburn definisce la canzone di Edith nel film Sabrina, a riprova dell'enorme successo di questo brano, considerato uno dei più famosi nella storia della musica leggera. Sull'onda di questo incredibile successo, Edith Piaf organizza una lunga tournée in Francia e poi negli Stati Uniti, dove incontra l'amore della sua vita, il pugile Marcel Cerdan, che purtroppo però morirà poco dopo in un incidente aereo, gettandola nuovamente nella depressione e tra le braccia di alcol e droga. Considerata la più grande cantante francese di tutti i tempi, Edith Piaf sta ascoltando l'audizione di Charles Aznavour. Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Edith è molto sensibile. Il vibrato nella voce di quel ragazzo piccolo, minuto, con quegli occhi così grandi che le sta cantando di fronte, le fa venire la pelle d'oca. Lei è una grande professionista. Sa cosa vuole per i suoi spettacoli. Sa quello che può piacere al pubblico, anche quello statunitense. E quella voce piacerà. Ma c'è dell'altro. Edith si specchia in Charles. Come lei, anche quel ragazzo è il frutto di un'infanzia parigina vissuta ai margini, nella sua voce roca così poco ortodossa, così differente da quella vellutata degli chansonniers in voga a Parigi. Lei si riconosce. Sa quale sofferenza si nasconda nei suoi anfratti. Si sente, come dirà più avanti, sorella di marciapiede di quel giovanotto sconosciuto. Io cantai e mi disse subito: «Va bene, Aznavour, partiamo fra 3 giorni». Fra 3 giorni, capite? E dopo 3 giorni io partì con Edith Piaf e con tutta la sua compagnia. Il giovane Charles è frastornato. Così di punto in bianco si ritrova nello spettacolo della grandissima Edith Piaf. È difficile da credersi, deve sbrigarsi, preparare le valigie, salutare i genitori, gli amici, chissà per quanto tempo starà via. Non si sta domandando il perché di tutto questo. Quello che gli capita cambierà definitivamente la sua vita. Ma lui, per il momento, sembra non accorgersene. È tutto preso dal suo nuovo ruolo. Apre i concerti della grande Edith. Lui, Charles Aznavour. Je vivais depuis mon enfance dans les rues noires de l'ignorance. Soudain tout s'est illuminé, mon cœur se mit à chanter. C'est beau l'amour qui se promène quand le bonheur en tient la chaîne. On pourrait rester prisonnier. Rien que pour contempler son geôlier. Edith Piaf è sicuramente un magnifico destino nella vita di Charles Aznavour. Grazie a lei inizia una grandiosa carriera che lo porta in giro per il mondo. È sempre lei che gli paga la plastica al naso per ridurre una gobba davvero troppo pronunciata che gli crea insicurezza. È ancora lei a spronarlo per farlo proseguire anche nella sua strada di compositore, fatta di testi spesso anticonformisti, molto avanti per l'epoca, come Je hais le dimanche, Odio le domeniche, lanciata da una giovanissima Juliette Gréco. Tous les jours de la semaine sont vides et sonne le creux. Mais y a pire que la semaine, y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. Je hais les dimanches, je hais les dimanches. Odio le domeniche e quelli che dormono 20 ore e fanno l'amore perché non hanno nient'altro da fare. Le parole sono importanti, dice Aznavour. Vengono prima della melodia. E di certo queste parole rappresentano qualcosa di importante davvero, perché in questo inizio degli anni 50 sono differenti da tutto quello che si è sentito fino a quel momento. Forse sono stato un visionario, ma a quel tempo pensai che le canzoni dovevano cambiare. Non potevano più raccontare di amori passati, del tempo che fugge, e soprattutto non potevano prescindere dalle differenze di classe sociale. Dovevano essere più personali, specifiche, su di un certo argomento. E poi dovevano rompere con gli schemi. Ci troviamo all'Olympia Music Hall di Parigi, al 9° arrondissement, in Boulevard des Capucines. In questo teatro, considerato il tempio della musica francese, Edith Piaf tiene una serie infinita di meravigliosi concerti. Ma in questa serata del 1956 non è lei l'attrazione sul palco. C'è qualcun altro che sta per cambiare le sorti della canzone francese, come dirà Jean Cocteau. Prima di Charles Aznavour, la disperazione era un sentimento impopolare. Aznavour compie 32 anni e un grande miracolo. La canzone francese non è più quella degli chansonniers. Diventa qualcosa di intimo, di appassionato, con un'intensa sfumatura di blu, come diranno alcuni critici. Dal palco dell'Olympia, il grande interprete intona la sua ultima creazione, un brano destinato a segnare quella che molti giornalisti il mattino dopo definiscono la Aznavourizzazione della Francia. Sur ma vie, je t'ai fait le serment. Que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait offrir mon nom. Sur ma vie segna l'inizio della strabiliante avventura di Charles Aznavour, che da questo momento dà il via alla sua carriera di solista. Il legame con la sua mentore, con la grande Piaf, non si scioglierà mai, fino a quando a soli 47 anni lei morirà, lasciando un grande vuoto nel panorama musicale dell'epoca e in tutti i cuori dei suoi moltissimi fan. Ho imparato da Edith tutto quello che c'è da sapere sulla nostra professione. Lei viveva con le sue canzoni tutto il giorno, tutti i giorni. Quando le interpretava raccontava semplicemente la sua vita. Per questo sembrava tutto così naturale. Nella sua nuova carriera da solista, la produzione musicale di Aznavour è caratterizzata da una particolarità unica. Il grande interprete arriva a scrivere in breve tempo in ben 7 lingue diverse. A differenza di tanti altri autori, e forse proprio perché attribuisce alle parole un significato determinante, Aznavour studia le lingue dei paesi nei quali intende portare le proprie canzoni. Inizia con l'inglese, poi studia l'italiano, il tedesco, lo spagnolo e persino il russo. Naturalmente scrive in francese e anche in armeno. E così, in ogni paese dove va, non è più uno straniero, non solo instaura un contatto più diretto con il pubblico, potendo parlare senza interprete, ma realizza versioni delle sue canzoni che non sono semplici traduzioni, ma qualcosa che è realmente parte della cultura e delle tradizioni di quel paese. Pur essendo poliglotta, ha però una sua lingua prediletta, come racconta durante un'intervista alla televisione francese. La lingua che preferisco, a parte il francese, ovvio, è l'italiano. Lo spagnolo anche. Sono le lingue mediterranee, più morbide, più belle da ascoltare e anche da cantare. Sono rotonde. Sembra che si riesca ad esprimere meglio quello che si prova. E non c'è che dire. Il fatto che ami tanto la nostra lingua si sente. Alcune delle sue interpretazioni in italiano sono addirittura più belle di quelle in francese. Sento sfuggirmi dalle dita ogni appiglio della vita e so già come finirò. Morire d'amore. Canzoni come questa dimostrano la bravura di Aznavour non solo come cantante, ma come interprete di grande spessore. In effetti, si può senz'altro dire che più che cantarle le sue canzoni, lui le reciti. Non dimentichiamoci che ha iniziato proprio facendo l'attore insieme alla madre, ed è una passione che non abbandona mai, tanto che nella sua lunga carriera affianca all'attività di musicista anche quella cinematografica, realizzando la bellezza di oltre 70 film, tra i quali nel 1960 Tiré sur le pianiste, Tirate sul pianista, del regista François Truffaut. In Italia, in particolare, forse più che in altri paesi, Aznavour è conosciuto e amato proprio per queste sue capacità recitative. Le sue tournée nel nostro paese sono mitiche e alcuni dei suoi brani sono hit intramontabili. Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Oggi I Magnifici Destini ha un protagonista d'eccezione, l'istrione per eccellenza, il grandissimo Charles Aznavour. Un uomo che ha saputo fare delle sue caratteristiche non proprio convenzionali il trampolino di lancio per una carriera che dura da oltre 60 anni, durante la quale ha composto oltre 1000 canzoni di enorme successo. Caratteristiche non proprio convenzionali, dicevamo. Quello che lui stesso scrive una notte su un tovagliolo di carta mentre si trova in un nightclub. È il 1950 e Charles Aznavour lo conoscono ancora in pochi. I miei difetti? I miei difetti sono la mia voce, la mia statura, la mia mancanza di cultura, la mia franchezza e la mia mancanza di personalità. Ha solo 26 anni il nostro cantante franco-armeno e forse è anche un po' ubriaco. Conclude che non può fare niente per la sua voce che raspa e punta a oriente. Non può fare niente per il suo 1,60 m, niente per la sua franchezza che lo porta a mandare a quel paese chiunque se gli va. Ma può fare molto per la sua cultura e molto per la sua personalità. Da quel momento è grazie a un magnifico destino che si materializza nella grandissima cantante Edith Piaf. La sua carriera diventa un crescendo continuo che non accenna minimamente a fermarsi, neanche oggi, nonostante i suoi quasi 90 anni. Quel tovagliolo di carta, Charles Aznavour lo conserva ancora e a ben guardare qualcosa ha potuto fare anche per la sua voce, nel senso che con gli anni e con l'esercizio, il suo meraviglioso strumento vocale si è arricchito di sonorità che da ragazzo non aveva. No, le voci familiari della boîte à la mode. Au curieux décor, nous découvrons assis sur des chaises incommodes les derniers disques pop poussés au maximum. Soprattutto si sono ampliate le sue note basse. hanno preso una corposità maggiore. Indubbiamente l'età può aiutare, ma nella vita di Charles Aznavour, oltre a quello con la grandissima Edith Piaf, c'è un altro incontro che influenza enormemente il suo stile, che esalta le sue doti canore, un altro magnifico destino che la vita gli mette sul cammino. Una voce inconfondibile, una pronuncia spagnola che aiuta a riconoscerlo. Stiamo ascoltando il grandissimo Plácido Domingo. Oltre ad essere considerato uno dei più grandi tenori al mondo per la sua voce potente e versatile, per avere rivestito oltre 140 diversi ruoli e per essere anche direttore d'orchestra della Los Angeles Opera in California, Domingo è anche noto per le sue doti umane. È un uomo molto piacevole, simpatico, estremamente divertente. Il mio nome, Plácido Domingo, significa Domenica Pacifica. Devo dire che mi piace parecchio, anche se alcune volte mi sento più un sabato agitato e magari invece dopo aver cantato l'Otello sono più come uno stanco lunedì. Pacifica Domenica lo trovo un gran bel nome. Cosa ha a che vedere un tenore spagnolo con uno chansonnier franco-armeno? In realtà, anni di Pavarotti and Friends ci hanno permesso di comprendere, grazie a Big Luciano, come la musica lirica possa avvicinarsi a quella leggera, creando magnifiche contaminazioni reciproche. Questo è quello che accade tra Domingo e Aznavour. Iniziata come una semplice amicizia, una simpatia, la loro diventa una collaborazione destinata a durare anni. C'est ta voix que j'entends, c'est ta voix que j'entends, la vague vient rouler. À mes pieds sur le sable, la trace de mes pas s'efface peu à peu. Ma tristesse aujourd'hui est inimaginable avec cet océan qui bouge entre nous deux, qui bouge entre nous deux. Duettare con un tenore non è cosa semplice per un cantante di musica leggera. Le tonalità difficilmente sono le stesse. È diversissimo il modo di impostare la voce, di tenere le note. In un'intervista rilasciata prima di un concerto alla Scala di Milano, in un italiano perfetto, Domingo spiega cosa significhi essere tenore dal punto di vista tecnico. Perché il basso e sì. Il baritono sono persone normali, sì. Invece i tenori no. I tenori dobbiamo sempre cantare in una tessitura sopra, allora dobbiamo sempre pensare, sempre la voce, queste due corde vocali, questa voce che è peggio che la donna più gelosa al mondo, no? Ah, sì, eh? Devi vivere con la donna più gelosa attaccata al collo. Allora... Charles Aznavour ha sempre in mente quelle frasi che ha scarabocchiato una sera di tanti anni prima su un tovagliolo di un nightclub. Non passa giorno che non si eserciti, non passa giorno che non faccia i suoi vocalizzi. E gli insegnamenti che apprende dall'amico tenore, anche semplicemente ascoltandolo, portano la sua voce a una notevole maturazione. Non pensiamo però che la collaborazione tra Charles Aznavour e Plácido Domingo sia a senso unico. Anche il grande tenore scopre qualcosa grazie allo chansonnier più famoso di Francia. Cantare in maniera più leggera può essere molto divertente. La vita riserva, come abbiamo visto, molte avventure al grande Aznavour, considerato tuttora il cantante francese più famoso del mondo. Un primato che gli spetta di diritto, nonostante le sue origini armene. Ma lui, come si sente? Più armeno o più francese? Sono più francese che armeno. Non scrivo e non leggo in armeno. Non conosco le preghiere. Sono francese, sono nato a Parigi. Tutti i miei studi li ho fatti in francese. Ma non ho mai dimenticato che le mie radici sono armene. E naturalmente tutto quello che posso fare per la mia prima patria lo faccio. Sono metà e metà. Quando vai al ristorante e prendi un caffè e ci fai mettere il latte, non puoi più toglierlo, no? Ecco, io sono così. Un caffè macchiato. Ma c'è un momento nel quale le sue radici armene lo catturano, lo avvolgono, escono prepotentemente e si fanno sentire. È il 7 dicembre 1988, quando l'Armenia è scossa da un violento terremoto che distrugge tutto, causando oltre 50.000 morti. Charles Aznavour si trova al Grand Hotel di Roma per una tournée nel nostro paese. È sprofondato in una poltrona, piccolo, minuto, ancora più del solito. Solo i suoi occhi sono immensi, dolenti. In quel preciso istante decide di inaugurare la Fondazione Aznavour per l'Armenia. Insieme al cognato Georges Garvarentz scrive una toccante canzone, Pour toi, Arménie. Riesce a coinvolgere alcuni fra i cantanti più famosi di Francia, tra i quali Gilbert Bécaud, Jean Birkin, Johnny Holiday, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, tutti amici suoi, per questo charity single, i cui proventi, derivati da oltre 1 milione di copie vendute, vanno ad aiutare le popolazioni armene sconvolte dal disastro. Diventa delegato per l'Armenia dell'UNESCO, membro del Fondo Internazionale Armeno, riceve la Legion d'Onore dal presidente francese e diviene addirittura eroe nazionale armeno. Più recentemente, nel 2006, viene addirittura nominato ambasciatore armeno in Svizzera, paese dove risiede da oltre 40 anni. E il suo apporto alla causa del suo paese d'origine appare subito molto innovativo. Forse non tutti saranno contenti di quello che dico, ma io non voglio più sentire parlare di genocidio armeno da parte dei turchi. Non voglio chiedere territori. Chi ci andrebbe? Se vogliamo superare il passato, se vogliamo essere moderni e guardare al futuro, dobbiamo dimenticare. Lo so, è doloroso, ma dobbiamo farlo per ristabilire il nostro rapporto con il popolo turco. Sono stato proprio di recente a trovare due ambasciatori turchi. A entrambi ho detto, mi dovete aiutare. Aiutando me, aiutate voi stessi. Un'attenzione a quelli meno fortunati, a coloro che soffrono, che deriva dalla consapevolezza di questi sentimenti che lui vive in prima persona. Oh, se fossi nato ricco, biondo, alto e bello, non avrei avuto niente da esprimere nelle mie canzoni, al di fuori della mia vanità. Anticonformista in tutte le sue espressioni, Charles Aznavour si dimostra sempre un passo avanti. Come quando nel 1972 gli viene in mente un testo molto particolare, la storia di un ragazzo gay. Vivo con la mia mamma. Sono un decoratore, ma la mia vera vita inizia la notte, quando faccio il travestito in un locale. E quando scoprono chi sono, oh, sei un uomo, così dicono. Nasce la canzone Come il Disa, così dicono, un brano incentrato sull'omosessualità in un periodo in cui essa è ancora e assolutamente un tabù. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Rue Sarrazade, j'ai pour me tenir compagnie une tortue de canarie et une chatte. I magnifici destini. You are the one for me, for me. For me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my. E formidabile lo è veramente il nostro protagonista di oggi. I Magnifici Destini vi sta raccontando la vita e la lunghissima carriera di un artista decisamente unico nel panorama della musica internazionale, Charles Aznavour. Scoperto dalla più famosa cantante francese di tutti i tempi, Edith Piaf, agli inizi degli anni 50, Aznavour ricorda sempre l'importanza di questo magnifico destino nella sua vita. Edith è stata tutto per me. Mi ha trasformato in un cantante. Ma per fortuna siamo rimasti sempre solo amici. Tutti gli uomini dei quali lei si è innamorata li ha distrutti. Io invece sono addirittura durato più di lei. Durato più di lei e forse anche qualcosa in più. Aznavour ha infatti un altro grande primato, quello di rappresentare un ponte immaginario, di avere portato il testimone in una staffetta al di là del tempo e dello spazio fra la grande Piaf è un interprete della canzone francese che tutti considerano a ragione la sua erede. Mireille Mathieu ha una voce altrettanto inconfondibile di quella della grande Edith Piaf. Come lei, arrotta moltissimo le R. Come lei, ha un'intensità che fa accapponare la pelle. Quando avevo 4 anni, vidi Edith Piaf alla televisione e in quel preciso momento decisi che avrei fatto la cantante. La prima volta che mi esibii davanti ad un pubblico fu l'anno dopo la sua morte, nel 1964. Vinsi un concorso, non la prima volta, non la seconda, ma la terza volta che partecipai, cantando La Vie en Rose. Ero tutta vestita di nero, proprio come lei. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ma c'è qualcun altro che Mireille ascolta con grande ammirazione fin da piccola. L'allievo di quella che è il suo mito, il grande Charles Aznavour. Quello che lei ama nella meravigliosa Edith lo ritrova ugualmente meraviglioso nelle intense interpretazioni di Charles. Ascoltandolo e cercando di imparare da lui, la giovane Mireille ha la sensazione di poter arrivare fino a Edith Piaf. L'incontro tra i due è inevitabile e sfocia in una serie di duetti di altissimo livello. Mademoiselle Mathieu, how about harmonizing something together? Yes. Okay? Yes. One of my songs? Yes, yes. Okay. Let's say embrassez-moi. Embrassez-moi. Kiss me. Yes. Maestro, please. Des lueurs au fond de tes yeux. Un regard trouble et malicieux qui veut me suggérer des choses. La sera del 2 maggio 1981, durante uno speciale su Aznavour realizzato dalla televisione francese, il cantante presenta così la giovane interprete. Questa sera ho una sorpresa per voi. Aspettate ad applaudire. Prima vi dico di chi si tratta. Da quando ha debuttato è diventata subito un fenomeno incredibile. Fa parte di quei rari artisti francesi conosciuti in tutto il mondo. Ho molto affetto ed ammirazione per lei, come penso sia anche per voi. Seguo aussi Mireille Mathieu. Certamente per Mireille Mathieu cantare con il suo mito deve essere sempre esaltante ed emozionante, ma non meno di quanto debba esserlo per i molti artisti internazionali con i quali Aznavour duetta durante la sua lunghissima carriera. Le sue canzoni sono successi mondiali e moltissimi interpreti ne danno una loro personale versione, come quella di una delle canzoni più famose di Aznavour, come Triste Venezia, la preferita di Julio Iglesias. Che se triste venir autant des amours mortes, que c'est triste Venise quand on naisse le bruit. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Oggi Aznavour ha quasi 90 anni ed è l'unico cantante al mondo a cantare ancora a quest'età. Dopo un concerto storico, tenutosi subito prima di Natale al Cremlino, è partita quest'anno la sua tournée in Canada e negli Stati Uniti. Perché continua a fare questa vita tanto faticosa? La sua risposta è straordinaria. Perché continua a cantare e a fare tournée? Perché io sono uno a cui piace vivere. Cosa dire ancora di Aznavour? Forse niente, perché lui la storia della sua vita la sta ancora scrivendo. Quindi è inutile trarre conclusioni. Lui è uno così, che anche nella vita privata si è dato anima e corpo, sposandosi ben 3 volte e avendo 5 figli, che si adopera instancabilmente per quelli meno fortunati di lui e ha recentemente organizzato una raccolta fondi anche per i terremotati di Haiti, insieme al cantante senegalese Youssou N'Dour. Eppure, di se stesso, dice con modestia che non è poi un tipo particolarmente interessante. Non dite niente di me. Quello che è interessante in un uomo è la costruzione della sua carriera, la sua fatica per raggiungere il successo, ma dopo, quando l'ha raggiunto, cos'altro c'è da dire? Puoi parlare di tutte le persone famose che conosci, di quanto tu le ami e di quanto loro amino te, ma tutto questo non è poi molto interessante. Quando arrivano i soldi e la fama, non c'è più il dramma. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nus.